Allora, ciao a tutti, grazie ad Alberto D'Amico che ci ospita e facciamo questo incontro un po' bizzarro probabilmente, perché in realtà non ha niente del convegno, ci siamo anche disposti in maniera circolare, semicircolare, in maniera da poter guardarci tutti in faccia e cercare di limitare il discorso ex cattedra, però un po' ex cattedra dovrà essere, nel senso che siccome qui c'è il registratore che appunto servirà a chi appunto non può essere presente, e purtroppo da chi non potrà essere presente c'è anche qualcuno dei relatori che erano elencati qui nella brossura, io pregherei appunto chi viene a parlare anche per fare interventi di carattere interlocutorio, non necessariamente per una prolusione, tra virgolette, intervento appunto eccetera, di venire qui in maniera che così la voce sia ben udibile e registrata. Allora, l'idea di esistere alla ricerca in realtà forse ha delle origini un po' più remote rispetto a quando abbiamo iniziato a parlarne tra le persone che appunto vedete elencate nel comunicato stampa per fare appunto l'incontro di oggi. E probabilmente ha a che fare con un cambiamento di clima, di prospettiva, di molte scritture in versi che a mio avviso, a avviso di molti, manifestato in questi ultimi 10 anni, soprattutto con la scrittura, per quanto riguarda soprattutto la scrittura in versi, poesia, in lirica, e meno per quello che riguarda altri tipi di esperimenti. Un piccolo picco di sismografo è stato un intervento brevissimo in rete, esattamente su Facebook, di Renata Morresi nel 2019, esattamente il 3 agosto del 2019, quindi ormai 3 anni fa quasi, che poi mi è sembrato così significativo, e non solo a me è sembrato significativo, al punto da metterlo poi anche in rete altrove, in particolare sul sito Slow Forward. Comunque si trova in giro ovviamente anche semplicemente su Facebook. E le poche righe di Renata, che non potrà venire, quindi diciamo io sostituisco la sua voce, almeno per questo, quello che riguarda queste annotazioni, dice così: ieri sono andato ad ascoltare dei giovanissimi poeti e ho capito che uno del se è giusto dire io e in che quantità uno dei temi dibattuti per anni fino allo sfinimento non gliene frega più nulla a nessuno. Non è proprio un oggetto sul radar, aggiungo, non è superamento del dibattito o nuova modalità di soggettivazione, ma inconsapevolezza. 2. Gli autori cosiddetti performativi sono considerati la nuova egemonia. 3. Tra un adolescente che comincia a scrivere e una comunità, chiamiamola, di dialogo, c'è spesso un grande, vastissimo deserto. 4. Alcuni giovanissimi hanno molto a cuore la questione del successo, tra virgolette, tanto che per un attimo pensi che stanno facendo un grosso errore a scrivere poesia, a non fare gli Instagram storytellers o simili. 5. I giovanissimi hanno il loro dolore da dire e pensano che i pari età possano capirli solo per il fatto di essere coetanei. 6. I giovanissimi dovrebbero studiare un po' di più per evitare di finire divorati. Postilla, questa è di nuovo Renata che ha fatto questo elenco, ritorna a riflettere. Non ho usato la parola intrattenimento, ma la parola successo e con cognizione. Primo, i giovanissimi poeti in questione non usavano e non contemplavano l'idea di intrattenere, volevano essere capiti, ognuno a modo loro. Per uno che parlava di follower, presentazioni e Mengoni, un altro avrebbe suonato il piano nello stanzino, citava il giovane Holden. Sì. Secondo, faccio fatica anche io perché, beh, leggo un gran libro di Anne Carson, una bella poesia di Edwin Morgan, una pagina ibrida di Eugenian, persino guardo uno spettacolo di poesia di Kate Tempest sulla BBC e non penso di essere stata ben intrattenuta. Non so perché scomodiamo una categoria televisiva, cioè quella dell'intrattenimento, quando abbiamo a disposizione la bella parola piacere, provare piacere, senza alcunché di male che il nostro piacere incroci la trama dell'interesse intellettuale e della ricerca estetica. Deve essere qualche retaggio ultracattolico che ci fa pensare che sarebbe male così? Ormai identifichiamo il piacere letterario con la mancanza di difficoltà. Ecco, questa è l'annotazione di Renata, che parte quindi con la presa d'atto di una situazione un po' particolare, appunto, che si è creata in questi ultimi anni. Il 2019 è un anno già molto avanzato, ma la situazione è durata parecchio tempo. E Può sembrare anche un po' bizzarra questa attenzione alla poesia contemporanea, quando invece non tanto la poesia, non tanto la lirica, quanto la post-poesia o le scritture di ricerche sono al centro di un incontro che così si intitola. Esiste la ricerca. Però il problema è anche sempre comunque quello degli interlocutori, cioè del contesto che si viene a creare, delle persone che si hanno intorno e quindi degli ascoltatori, anche degli ascolti. Io vorrei semplicemente adesso capire chi di noi vuole parlare per primo, e partendo da quello che ho detto, anche invece passando recisamente e decisamente ad altro. Metto in pausa. Se no mi fa un sacco di editing dopo, dai, su. Vai, vi leggo Alessandro Broggi, va, forza, il primo intervento è di Alessandro Broggi, che non è neanche lui potuto venire, e si scusa molto come Renata, purtroppo. Certo, si potrebbero aprire qui vari discorsi, questo è un intervento che lui ha pubblicato sempre su Facebook, come vedete Facebook diventa anche una neanche tanto piccola palestra di annotazioni su cose che vanno ben al di là del discorso del semplice social network. Certo, si potrebbero aprire qui vari discorsi, per esempio sul grado di autolegittimazione di un autore all'interno delle pratiche linguistiche e comunicative. Autolegittimazione che, per quanto la sua posizione possa risultare studiatamente pacificata, per così dire non più di soggetto o tale solo a un metalivello, come per esempio all'interno di alcuni giochi linguistici delle cosiddette scritture di ricerca, questa posizione può risultare studiatamente pacificata perché è costitutiva al fatto stesso di emettere un testo, e anche discorsi sulla consapevolezza che la stessa scrittura, in quanto ipostatizzazione di forme, sempre e comunque produce ego. D'altro canto, a mio modo di pensare, occorrerebbe forse vedere se non sia il caso di non relegare più la questione soltanto al recinto del testo, al discorso sulla soggettività interna al e presente o meno nel testo, o all'ideazione di strategie e dispositivi verbali non manipolativi che propongano alternative credibili alla produzione di ego, anche e soprattutto nel lettore, o persino che siano deproduttivi di soggettività, ma piuttosto di ripensarla, la questione, un passo più indietro, preliminarmente e al di fuori del testo, a monte, dove il testo si pensa e si genera in termini più radicali, o se vogliamo orientali, a partire dalla nostra stessa posizione e postura di soggetti ego, soggetti trattino ego, agenti, verso un'ecologia dei processi verbali e delle idee, un'ecologia ontologica, un'ecologia agentiva, eccetera, nelle nostre vite individuali e sociali. Il testo diciamo è facile da leggere, difficile da diciamo inquadrare, e quindi non a caso chi vuole può inquadrare il QR code e andarsi a vedere, a leggere, chi vuole può anche distrarsi al cellulare e fare un videogioco, tanto noi pensiamo che stia facendo la lettura dei testi e quindi in questo folder che si apre inquadrando questo link non soltanto c'è il testo di Renata Morresi, quello di Alessandro Broggi, ma c'è anche un intervento per una serie di incontri e di letture che ci saranno a New York a novembre, un intervento di Luigi Ballerini intitolato Radical Poets of Different Feathers, cioè poeti radicali di diverso piumaggio. Il fatto del piumaggio viene spiegato da chi appunto poi leggerà il testo e capirà, non sto a diffondermi su questo, però l'espressione che viene usata invece di essere poesia di ricerca, scrittura di ricerca, poeti o scrittori sperimentali è radical poets, quindi mette insieme un discorso latamente, ma neanche tanto latamente politico, un discorso di radicalità della ricerca, della sperimentazione. E questo è un suggerimento che condivide Luigi Ballerini con Charles Benstein, uno dei grandi autori della language poetry degli anni 70, è tuttora vivente, è tuttora sperimentante ampiamente negli Stati Uniti, in particolare a New York. E molto altro ci sarebbe da leggere volendo, io ho messo nel folder un intervento di Francesco Muzzoli che si chiama Modernità e dissonanza, diverse cose di Jean-Marie Glaise, qualche cosa ovviamente del sottoscritto e altri interventi di Gerardo Bortolotti, per esempio. E quindi adesso è chiaro che non voglio diffondermi, però gli stimoli sono tanti per e sdefinire, perché forse definire è l'impresa impossibile, il territorio della ricerca, però nel fare ciò anche capirne alcuni tratti essenziali, e per dibattere tra noi se ci sono anche posizioni diverse che possono giustamente convergere, divergere sensatamente. Lascio il mio posto a chi vuole venire. Ciao. sono vari posti, qui davanti. Sì, sì, sì. Ritardo, ma per venire qui, oggi è stato. Ma io non ho preparato un intervento strutturato, vorrei parlare brevemente e magari poi tornare a parlare in seguito. Dunque, esiste la poesia di ricerca? È chiaro che la domanda è paradossale, nel senso può fare riferimento al fatto che noi esistiamo veramente come esseri umani in quanto scrittori di ricerca. La risposta è ovviamente sì. Si fa riferimento, Marco fa riferimento a un suo video molto divertente. Che non esiste più. In cui dice, se la poesia di ricerca esiste. Se la poesia di ricerca non esiste, non può essere accusata di essere egemone, cosa che invece alcuni poeti neolirici, soprattutto delle generazioni immediatamente successive alla nostra, a volte sostengono. Se esiste, vale la pena che venga letta, e se esiste, probabilmente è già letta, dovrebbe, potrebbe essere più letta di così. Ma probabilmente il senso terzo, diciamo, di questa domanda, è almeno quello che provo ad afferrare io per un capo, senza pretendere di venire all'altro, è invece di tipo intenzionale e estensionale, cioè che cos'è e chi sono i poeti di ricerca oggi. In questo senso io trovo che un appuntamento del genere così ricco, con tante persone che probabilmente animano questo campo anche più centralmente di me, valga la pena di essere realizzato se promuove anche uno spostamento dei termini o comunque una loro messa a fuoco, una loro precisazione, un loro ampliamento. E nel mio piccolo vorrei dare un contributo minuscolo a questo. Ecco. Allora, io a me piacerebbe innanzitutto che la poesia, che la scrittura di ricerca cambiasse due cose nella propria autoriflessione. Prima ancora di capire come spostare i termini, mi piacerebbe capire come spostare i termini nei quali la scrittura di ricerca riflette su se stessa. E sono due aspetti, il primo che definirei teleologico, insomma, e il secondo che definirei morale. Se non moralistico, ma nel senso del moralismo nobile, insomma, dei grandi saggisti morali. Quello teleologico, che secondo me andrebbe abbandonato, è che esista una sorta di necessità storica di qualsiasi genere, per cui a un certo punto bisogni, si debba, sia necessario scrivere poesia di ricerca, sospendiamo per un momento l'intenzione di questo termine, cioè che sia successo qualche cosa nella storia per cui a un certo punto le altre scritture diventano in qualche modo anacronistiche. Io non credo che questo sia vero in essenza. Riferendomi a un saggio importante che è contenuto in questo bellissimo libro di Glass, che consiglio a tutti, ma di cui abbiamo letto qua e là vari pezzi negli anni, ma adesso viene pubblicato in forma di collezione da TIC nella Collana degli Alberi, cioè qualche uscita post-poesia e dintorni di Jean-Marie Glaise, riferendomi in particolare a un saggio del 1993 che si chiama Perché adesso suona il tam-tam, in cui Glaise sostiene che esistono tre soluzioni, cioè ci sono tre di soluzioni possibili, non ce ne sono 10, ce ne sono solo tre. Questo è l'esordio così apodittico, soluzione del problema del che cosa scrivere oggi probabilmente, o a che cosa è giusto o che cosa è possibile scrivere. Queste tre soluzioni vengono sinteticamente definite da Glaise come restaurazione, invenzione e negazione. Grosso modo, dico grosso modo, la restaurazione è la lirica, o comunque possiamo identificarla facilmente noi che leggiamo questo testo e leggiamo la poesia contemporanea italiana 30 anni dopo, con questa nuova ondata, mi scuso per l'utilizzo del termine ondata, che ha più nobili ascendenti, di una lirica sostanzialmente irriflessa e che non ha nessun interesse a fare conti con le varie ondate di avanguardia novecentesche. post-novecentesche. Il secondo invece è un atteggiamento più sperimentante, sperimentale, che si può associare latamente a certi aspetti di quello che negli anni 80-90 chiamavamo postmodernismo critico e in generale che non abbandona necessariamente l'idea del verso e non abbandona necessariamente l'idea che comunque agiamo in un panorama di continuità, sebbene problematica con la tradizione moderna, e un terzo che Glass chiama la negazione, che possiamo associare in forma pura, diciamo, a quella che anche da noi è divenuta scrittura di ricerca. Ecco, rispetto a questo panorama, io non ho l'impressione che ci siano dei motivi storici per cui uno di questi tre o due di questi tre paradigmi, due di queste tre scelte, non siano più in grado di dare delle soluzioni soddisfacenti. Io credo che in teoria ci sia spazio per tutte e tre le soluzioni e che tutte e tre le soluzioni possano avere un carattere progressivo. E tutte e tre le soluzioni, in termini leopardiani e poi giulianiani, possono essere pienamente contemporanee. Il punto è che ci troviamo davanti a un panorama in cui questa cosa francamente non accade quasi mai per la prima soluzione. Ecco. Cioè io non escludo, e in un certo senso io vedo una parte della mia produzione, ma l'ho scritto altre volte, anche una parte della produzione di Marco Giovenale, anche una parte della produzione di Gherardo Bortolotti, senz'altro una parte della produzione di Andrea Inglese, come latamente lirica, per quanto di una forma lirica completamente oggettivata, largamente oggettivata, a volte niente affatto oggettivata, e tuttavia capace di parlare completamente la contemporaneità. Glass stesso in questo saggetto sostiene che a oggi le soluzioni più efficaci gli sembrano venire dalla seconda e dalla terza possibilità, e lui si identifica chiaramente ovviamente con la terza, insomma. Però in un passaggio molto importante di questo testo riconosce che invece anche la seconda via è quella, diciamo, di una maggiore continuità con il moderno, di una via che non nega completamente la soggettività nella poesia, che non nega neanche completamente l'idea di poesia, possa essere portatrice, insomma, di un contenuto e di una capacità progressiva. Ecco, quindi io inviterei ad abbandonare l'idea che esista una necessità storica per cui è solamente la terza possibilità a un certo punto a dover diventare l'unica legittima interprete della contemporaneità, perché penso che questo sia già smentito nei fatti dalla scrittura delle persone che, sebbene in maniera molto lasca o anche più stretta, si riconoscono in questa gravitazione, insomma, in questa galassia di scritture, e poi perché non c'è un motivo filosofico sostenibile. C'è nessun motivo cogente per dire che la lirica non ha più possibilità di esprimere la contemporaneità. Non c'è nessun motivo cogente, tantomeno, per sostenere che una tradizione di scrittura in continuità con la tradizione poetica moderna e postmoderna non abbia più nessuna possibilità di rappresentare la contemporaneità, abbia esaurito le proprie risorse vitali. Ovviamente questo è decisamente meno vero, forse è più facile da riconoscere come meno vero ancora per la terza opzione. La seconda raccomandazione che io mi sentirei, e quindi in questo senso a me verrebbe da dire che la poesia di ricerca non esiste, cioè non esiste come una scuola di poesia, ma in effetti è ricerca, perché ricordiamoci che ricerca ha in tutto il Novecento, almeno in ambito artistico, una connotazione inevitabilmente assiologicamente positiva, insomma, in maniera quasi inevitabile. La ricerca è un bene, ecco, io penso che sia ricerca in qualunque di questi tre filoni quello che fa progredire, che riesce a parlare alla contemporaneità in maniera formalmente, ideologicamente, filosoficamente convincente e persuasiva, e che chiaramente è una contemporaneità che si connota in primo luogo, a mio parere, in questo senso so che un'altra persona come Luigi Severi la pensa abbastanza come me, in termini di complessità, insomma, ecco. Viviamo in un'epoca enormemente complessa dal punto di vista delle dinamiche storiche, politiche, ideologiche, più complessa di qualsiasi altra epoca storica, se non altro per le fitte correlazioni e interrelazioni fra realtà geografiche, territoriali, culturali, religiose, di classe, di ogni tipo. La semplicità, nel senso di povertà di elementi, di semplicità ideologica, come la semplicità di cui in questa cartella c'è una cartella molto bella, molto potente, sono gli exempla. Ecco. In questa cartella Marco aveva non solo inserito dei contributi critici che utilissimi alla riflessione, che io ho letto tutti quanti, ho trovato molto interessanti, anche se mi è sfuggito quello di Grazia, che forse è arrivato un secondo momento. Ma ha messo una divertentissima cartella in cui fornisce un po' con doveroso sarcasmo alcuni esempi di questo genere di semplicità a cui mi riferisco, che non ha niente a che fare con, diciamo, con la semplicità di testi, la semplicità non apparente ma reale di testi di ricerca, come per esempio alcuni testi di Michele o altri ancora di tutti quanti voi, noi, eccetera, ma ha a che fare con l'ideologia della semplicità, con il fatto che si presuma che possa esistere una soluzione molto molto semplice a qualsiasi genere di problema estetico, poetico, ideologico, politico, filosofico, e che ovviamente è errato, ed è errato più oggi che mai. Quindi in questo senso, però queste soluzioni positive e complesse, secondo me, possono teoricamente arrivare dall'ambito della lirica, anche non ci sono arrivate, non ci arrivano più, non ci sono arrivate di recente, se non da forme di lirica che non sono certamente, non assomigliano alla lirica che vediamo in atto nei poeti nati negli anni 80 e 90, nei poeti, non tutti, nella gran parte purtroppo dei poeti nati negli anni 80 e 90, ma in teoria potrebbe essere. La seconda determinazione che io vorrei raccomandare a tutto il campo di scrollarsi dalle spalle è di tipo appunto morale, ma in realtà l'ho già ricompresa nella prima, cioè non è che la poesia di ricerca è meglio della poesia, cioè la poesia del terzo tipo, la terza scelta clesiana rappresenti intrinsecamente un'opzione superiore, ecco, un'opzione moralmente favorevole, altrimenti ricadiamo in una forma di idealismo che è quanto più arcaico, di platonismo, che è quanto di più arcaico e estraneo al nostro campo di idee e alle nostre appartenenze politiche, alle nostre convinzioni filosofiche, no? Cioè, non è che possiamo pensare di avere una né comportarci come se avessimo una sorta di cose che tutti credo siamo tentati di fare, soprattutto in una situazione di frustrazione complessiva come quella dell'editoria, del rapporto fra l'editoria e il pubblico da un lato e il nostro genere di scritture, di esperimenti e di ricerca. Non possiamo pensare di essere necessariamente dalla parte della ragione e ci dobbiamo il più possibile discostare da questo. Questa cosa è strettamente legata all'idea di una teleologia, ecco. Noi ci sentiamo dalla parte della ragione perché ci sentiamo dalla parte della storia. È tutto molto molto da dimostrare. Io credo che senz'altro noi abbiamo in questo momento le migliori scritture italiane, vengono quasi tutte espresse da questo campo o da campi circonvicini. C'è un aspetto specifico della devo essere breve, invece sono lunghissimo, ma ho quasi finito, di questo atteggiamento di moralità sul quale mi preme tornare e che so che può essere delicato, insomma può essere un argomento delicato in questo consesso, che è quello dell'assertività. Allora, io L'assertività secondo me è un concetto che si è rivelato molto utile nella discussione degli ultimi 10 anni, è un concetto che in gran parte si deve a Marco, ma non solo a lui. Picconi ha scritto il primo volume di questa collana, ha come sottotitolo Pragmatica dell'assertività, ricordo bene? Ed è un libro preziosissimo, uno dei contributi teorici più preziosi. Pragmatica della non assertività. È uno dei contributi teorici più preziosi alla discussione degli ultimi anni, secondo me, almeno come io ho potuto leggerlo. E tuttavia mi sembra che il concetto di assertività abbia dei problemi che finiscono per danneggiare, insomma, comunque per ridurre la complessità del campo. In primo luogo io ho cercato anche di risalire a quali possono essere le origini storiche di questo concetto. Picconi certamente ci aiuta, però non è che sia molto chiaro esattamente. Sicuramente un contributo vitale alla genesi o alla protogenesi di questo concetto viene da Roland Barthes e dal suo concetto di morte d'autore, che è un concetto non solamente, diciamo, di sociologia della letteratura, ma è un concetto assiologicamente molto connotato. L'autore muore e si rende possibile una dizione in letteratura impersonale che prescinde completamente che supera, diciamo, la posizione grosso modo fichtiana dell'autore come legislatore assoluto dello spirito, e quindi questo aspetto della poetica romantica che a tutti noi sembra non solo superato ma anche politicamente contraddittorio e problematico. D'accordo in linea di massima, però è anche vero, e per esempio Blaise lo scrive, che una posizione fondamentale della scrittura di ricerca sta nella responsabilità della forma, la responsabilità politica della forma, altro concetto cartesiano tra l'altro, ma la responsabilità della forma è assertiva, cioè una cosa profondamente assertiva, e non è un male di per sé che esistano delle poetiche assertive. Ora, che queste poetiche assertive, come sono come è profondamente assertiva ogni poetica politicamente connotata, come sono le poetiche degli scrittori presenti, poi finiscano per enunciare nel contesto del testo delle affermazioni che vengono attribuite all'autore implicito o esplicito, o persino all'autore biografico, appunto, o al narratore, non è una differenza ontologicamente rilevante. Cioè, no, il problema è che cosa viene asserito e se viene asserito qualcosa di utile, qualcosa di politicamente rilevante, qualcosa di spendibile, qualcosa di interessante, qualcosa di innovativo, persino addirittura, se torniamo ai miti postmodernisti di Rosalind Krauss, qualcosa di critico, qualcosa di intelligente, persino. Quindi io non riesco a trovare una differenza morale e non riesco a trovare una prepotenza nei confronti del lettore maggiore in, faccio per dire, per riferirmi a un testo che recentemente abbiamo letto in pubblico, all'Angelo Mai, un libro di Gabriele Frasca, un libro super politico, come l'ha definito Massimiliano in pubblico, un libro profondamente beniaminiano, un libro in cui si parla di politica, parlando di politica, non semplicemente agendo una poetica dal profondo significato politico, da un lato, e dall'altro delle poetiche politicamente rilevanti, come sono quelle di Michele, di Marco, di Alessandro Broggi e di tanti altri di voi, di noi, che però non dicono nulla, cioè non enunciano nulla. Non c'è una differenza morale fra queste due scritture, io non riesco a vederla. Non è che asserire qualcosa è un male. Cioè, se io dico Se io esprimo in una maniera formalmente convincente che ha senso mettere in un testo, diciamo che non è un testo saggistico, non è ancora un testo saggistico, non lo sarà mai, lo sarà forse, non lo so, in un altro momento, un giudizio critico, per esempio, nei confronti di una realtà sociale, non sto facendo niente di per aggiogare un presunto lettore a chissà quale prepotenza, non sto conculcando nessuno, sto semplicemente proponendo un'idea. Come sto proponendo un'idea se metto gli stessi contenuti critici in una forma che prescinde completamente dall'enunciazione ascrivibile a un soggetto, cosa che per esempio Michele, più di ogni altro, Zaffarano sta facendo con chiarezza negli ultimi suoi testi, che sono testi di contenuto politico, paragrafi in armonia, gli alberi, un contenuto riconoscibilmente politico, indecidibilmente politico, nel senso che non si capisce fino a che punto alcuni aspetti del testo siano ironici, altri no. Ma ripeto, non c'è nessuna superiorità morale in questo, non c'è nessuna superiorità estetica di per sé. Poi può darsi che i risultati siano più convincenti di altri, però è come dire, io la considerazione che vedo come una considerazione a posteriori rispetto al testo, cioè non come una presa di posizione di principio, perché la presa di posizione di principio non ha un sostegno epistemologico convincente. Cioè non c'è un motivo per cui, se un poeta dice io penso che la Roma sia una pessima squadra, questa cosa debba contenere di per sé un contenuto di conculcazione o un... Perché semplicemente non è così, non è così in nessun campo dell'agire umano, non vediamo perché debba essere così esclusivamente nella scrittura poetica, chiamiamola latamente poetica. Non ce n'è un motivo, ecco. Perché sennò tutti i saggisti, tutti i politici, tutti il 99% dei romanzieri dovrebbero essere dei narcisisti conculcatori, cosa che può essere biograficamente vera in tutti i casi, però che non ha a che fare con la posizione dell'enunciazione, perché pensare che abbia a che fare con la posizione dell'enunciazione è una petizio principi, non abbiamo nessuna prova, non c'è, non, datemene una voi se riuscite. Allora, questo è solo per dire che secondo me il campo letterario al quale noi pensiamo di poter appartenere, intorno al quale possiamo girare, è più ampio di quello che a volte crediamo. Uso il noi, anche se la mia posizione è per sempre un po' intermedia, e i colleghi lo sanno benissimo. E poeti come Lidia Riviello, per esempio, che non dice un io neanche, non c'è quasi mai la parola io, non c'è nessuna eccezione, tutta in terza persona, insomma, quello che scrive. Francamente è anche una poetessa molto gentile, in cui il senso di conculcazione è estremamente lontano, e formalmente dà delle soluzioni interessanti, originali, sicuramente in continuità con una parte della tradizione novecentesca, però con delle punte di interesse. Secondo me non è che appartiene a un altro campo, appartiene a questo campo. Andrea Inglese scavalla campi con particolare agilità, e siamo felici che lo faccia, insomma, ecco, che sia nel romanzo, che sia nelle prose brevi, che sia nella prosa in prosa, che sia nella poesia, a volte nella poesia lirica. Non neppure possiamo immaginare, perché alcune delle posizioni più drastiche che esprimiamo a volte hanno questo per conseguenza logica, che tutte le forme narrative, diciamo, cosiddette mainstream, siano esecrabili. Sarebbe veramente un'ingenuità da parte nostra pensarlo, che ogni prosa narrativa sia in qualche modo inadatta ai tempi, sia comunque faccia i conti in maniera passiva e distruttiva con le esigenze del mercato editoriale. Per esempio, per me, autori come Francesco Pecoraro, per dirne uno, come Daniela Ranieri, per dirne un'altra, mi limito agli autori che pubblico io, quindi sono assolutamente di parte, ma ci sono anche altri autori che non pubblico io, ovviamente, che appartengono per originalità, per capacità di critica, per capacità di innovazione formale, strutturale, architettonica, perché non dobbiamo dimenticarci che insomma, uno delle frontiere della ricerca è l'architettura dei testi. L'architettura dei testi intesa come forma fisica dei libri, come divisione in sezioni, come ideologia della titolazione, ideologia della chiusura dell'opera, no? Tutti aspetti su cui alcuni poeti di ricerca sono più tradizionali di altri poeti di ricerca, se vogliamo. E, dicevo, non possiamo pensare che tutta la narrativa italiana contemporanea sia nel campo nemico. No, dobbiamo essere in grado politicamente e poeticamente, dal punto di vista della poetica, esteticamente, estetologicamente, di riconoscere chi sono gli interlocutori. E io credo che gli interlocutori debbano essere di più di quelli che abbiamo avuto fino adesso. Però non dal punto di vista dell'allargamento del pubblico, dell'allargamento degli interlocutori, delle persone con cui parliamo, con le cui opere ci confrontiamo quotidianamente. E forse vuol dire qualcos'altro, ma credo di averci parlato abbastanza. Scusate. Ordine alfabetico, quindi chi vuole intervenire dei preiscritti a parlare. Andrea, sei stato chiamato in casa, dai. Sei stato nominato. Alcune cose me le ha già detto il Vincenzo, quindi mi ha alleggerito. Allora, proverò a dare ordine appunto a questi interventi a braccio, che poi fino adesso non sono stati per nulla a braccio. Con tre punti: cose che ci sono, cose che mancano, cose che possiamo fare. Allora, in realtà le cose che ci sono, a me è interessante che ci si ritrovi su l'impulsione di Marco e su anche una percezione che è stata in qualche modo condivisa intorno a questo tema, direi io, in un momento che per certi versi sembra particolarmente florido in realtà per la ricerca in generale. Non entro in qualche modo di rimpallo sulle cose dette da Vincenzo, senz'altro io penso che sia importante alcune questioni che lui ha messo, cioè le condivido in termini di apertura di campo e di non determinare troppo presto e in modo troppo stretto quello che noi consideriamo ricerca, lasciando fuori forme di scrittura che possiedono una loro potenza critica di reinvenzione delle forme. Anche sulla questione della necessità storica trovo che sia un punto estremamente importante. Ma tornando a quello che c'è, a me sembra che negli ultimi 2-3 anni c'è stata una produzione notevole in ambito anche solo editoriale. Abbiamo dopo anni avuto tutto Spatola da Diaforia, abbiamo avuto tutto Costa da Argo, c'è tutto il lavoro di Ben Wiseris che ha avuto una sua costanza nel tempo e che è irrimpiazzabile. Abbiamo la ricchezza e la fioritura di Tica Edizioni, per citare solo alcune cose. Il testo di Picconi è particolarmente importante perché secondo me è uno dei testi più recenti che tenta di mordere nella produzione testuale contemporanea con un'ambizione teorica estremamente ampia. Quindi mi sembra che in realtà di materia e di energia ce ne sia in campo parecchio. Spesse volte, ma qui poi mi riallaccerò al punto finale, che cosa possiamo fare, probabilmente per come funziona tutto il sistema delle istituzioni letterarie in Italia, o per come non funziona, queste energie vivono un po' sparpagliate, a volte purtroppo anche ignorandosi in qualche modo. Però mi fa dire che di materia ce n'è davvero parecchia. Che cosa secondo me manca? Allora, manca quello che, ad esempio, per fare un po' di comparazione di campi, quello che ad esempio in Francia esiste. In Francia hanno risolto un po' il problema delle tre vie di Gleize, nel senso che hanno costituito due ambiti che in qualche modo, due circuiti che in qualche modo funzionano in modo in gran parte autonomo. Il circuito che noi metteremmo nelle vicinanze della ricerca, come si diceva una volta, della sperimentazione, il circuito più tradizionale, lirico, eccetera, e sono circuiti che spesso non si incontrano neanche, per cui non c'è mai quella tremenda situazione in Italia di quando ci si trova a volte a leggere poesia e c'è sempre questa questione di dover dare dei grossi segnali: attenzione, perché io sto leggendo una poesia, però non è la poesia che voi pensate, però vi posso assicurare che in qualche modo è poesia, o forse è post-poesia. Insomma, c'è tutta questa sorta di incertezza nella ricezione, che per certi versi è anche in un suo lato un po' sfigato, per certi versi è anche interessante, perché questa sorta di doppia diffusione francese, con le istituzioni che spesso appoggiano in modo particolare la poesia di ricerca, finanziariamente ovviamente, pone anche dei limiti e dei problemi. La cosa interessante è che in Italia si parla e si è additato anche all'inizio un po' del nostro percorso, penso al percorso di riflessione di Marco un po' di anni fa, no? Si è additato in Italia la dimensione performativa come una sorta di dimensione debole, spettacolare, che in qualche modo, perché concretamente legata alle vicende dello slam poetry italiano, rappresenterebbe una, come dire, no? Un versante falsamente innovativo e che in realtà ripropone poi forme di ingenuità nella scrittura dei testi, nella presentazione, nella spettacolarizzazione. Ora, la cosa interessante è che invece in ambito francese, dove esistono dei veri circuiti di intermedialità, quindi collaborazioni che si fanno in modo sistematico tra musicisti, artisti plastici e autori, scrittori che spesso, scrittori di poesia di ricerca o di scrittori di ricerca che spesso escono dalle arti plastiche, cioè hanno fatto le accademie d'arte e che quindi hanno già integrato tutta una serie di cose che noi abbiamo scoperto dal versante della scrittura un po' tardi, no? Come tutta la dimensione concettuale da un lato e performativa, però nel senso delle arti plastiche, non nel senso dello slam poetry. Quindi, ad esempio, secondo me una cosa che mancherà per sempre in Italia, e qui bisogna mettersi il cuore in pace, è un circuito intermediale dove poter realizzare davvero delle sperimentazioni interessanti sul piano appunto performativo, in questo senso un po' più ricco che quello ovviamente dello slam poetry. L'altra cosa che manca, secondo me, e che questa io spero invece che possa essere costituita, anche se magari è un po' ingenuo pensarlo, è un legame tra questa tendenza che noi abbiamo di dire spesso, no, no, le nostre scritture hanno una dimensione politica, la scrittura di ricerca ha una dimensione politica, eccetera, eccetera, su cui sono senz'altro d'accordo, e un legame su quella che è la riflessione politica o più semplicemente la riflessione su come sia possibile o meno uscire dal capitalismo oggi, dal momento che secondo me questo legame si è completamente sganciato, no? Potremmo dire che non solo si è sganciato nel senso che non esistono più le avanguardie, cioè delle sperimentazioni artistiche che in qualche modo si appoggiano o vogliono appoggiarsi a dei movimenti sociali contemporanei di contestazione dell'esistente, ma qui si è proprio sganciato anche il semplice dialogo tra una dimensione più di studio, di riflessione interdisciplinare, multidisciplinare sui destini della società e quello più specifico invece che riguarda in qualche modo i destini delle scritture. Come costituire questo riallacciamento? Non lo so, magari esiste, io non lo vedo, però non, ecco, davvero non lo vedo qui, forse un po' di più in Francia, ma non so neanche lì fino a che punto. E arriviamo al punto su quello che si può fare. Ma una delle cose, delle esperienze di questi anni che io ritengo più bella, più efficace, in cui tra l'altro non ho nessun ruolo, è stata Exit. Ma non solo, però diciamo che Exit mi è sembrato un momento di innanzitutto allargamento. Allargamento partendo da un'esperienza che era molto legata a un sito come GAM, a delle esperienze molto specifiche. Ad un certo punto Exit è stata una sorta di allargamento e di apertura con persone di generazioni diverse, di provenienze diverse, sempre a partire dall'orizzonte di quello che si voleva o si concepiva o si immaginava come ricerca. E da un certo punto di vista ovviamente si possono fare delle critiche ad Exit che potrebbero essere fatte a questa stessa occasione, cioè di dire vabbè, ma alla fine che cosa significa? Significa semplicemente organizzare degli incontri di una comunità ristretta che non arriva ovviamente a incidere sull'idea della poesia, su quello che si trova negli scaffali in poesia, nelle librerie, eccetera, eccetera. Io penso invece che anche un po' per sfuggire al veleno a cui tutti siamo poi abbastanza ormai abituati, che cerchiamo di utilizzare con la buona volontà maggiore, cioè al veleno dei social network, io penso che delle occasioni più sistematiche di incontro e di sperimentazione di pratiche diverse, pratiche di confronto, pratiche di discorso, pratiche di scrittura, pratiche di lettura, pratiche di invenzione, pratiche di riflessione e studio, queste sarebbero davvero estremamente necessarie, ma anche per la nostra, come dire, felicità di persone, non solo di autori. Ed è vero però che diciamo che queste occasioni di incontro, e qui ritorno un po' sul discorso di Vincenzo, sulle questioni specifiche, assertività, eccetera, eccetera, si potrebbe discutere tantissimo, a lungo, eccetera, però il principio generale di dire, riconosciamo, no, almeno di principio una molteplicità di percorsi, alcuni dei quali non sono stati per esempio neanche cartografati criticamente, anche se la critica ha già fatto parecchio in Italia da questo punto di vista, ma senz'altro non abbastanza, e fortunatamente, perché la creazione in qualche modo ha i suoi ritmi, la sua felicità, la sua velocità che non corrisponde forzatamente con quelle delle cartografie. Ecco, questo secondo me è uno dei punti, quindi anche questa occasione ci ho tenuto anche ad esserci perché mi sembra che faccia parte delle cose che possiamo fare e che possiamo continuare a fare. In piedi ci sono sedie, anche sedie. Se portiamo un pochino più dietro. Intanto ne approfitto per spiegare a chi non avesse con familiarità con la cosa ultima che ha nominato Andrea. E che cos'è Exit? Exit è stato un incontro scritto ex.it e sottotitolo Materiali fuori contesto nel 2013 ad Albinea in una in provincia di Reggio Emilia. Ci si è visti in un certo numero di autori che facevano un tipo particolare di ricerca letteraria, che poi è quella un po' anche che ci vede qui riuniti a chiacchierare, e, organizzato da Michele Zaffarano, Mariangela Guatteri, che è stata proprio preziosissima perché era sua tutta proprio, era diciamo suo il territorio appunto, che lei vive lì, Giulio Marzaioli è il sottoscritto, e si è lavorato sia sul piano appunto della traduzione, perché molti autori erano per la prima volta tradotti in Italia, soprattutto dalle aree anglofone e francofone, anche dal punto di vista dell'immagine, della sperimentazione, chiamiamola così, verbovisiva, latamente, poi ci sono esperienze un po' particolari in questo senso, e sia dal punto di vista invece degli autori italiani che leggevano in italiano. C'è stato anche un collegamento con Charles Bernstein, era allora presente, traduttrice anche dello stesso Bernstein, Millie Graffi, che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa, e questa esperienza di Exit, che vuol dire Exit, vuol dire che non si è in qualche maniera più italiani e quindi ci si muove verso anche altre aree di sperimentazione di esperienze letterarie, ma che anche, perché il complemento di moto da luogo, ex it, si viene comunque dall'Italia, ed è anche un'uscita in qualche maniera, e anche qui si riecheggia quel libro del 2009, Sortie, che appunto significa uscite, che è stato recentemente tradotto da Michele Zaffarano e citato appunto in un suo brano da Vincenzo poco fa. Questo soltanto per spiegare che cos'è Exit, appunto, di cui Andrea parlava. Ci sono state anche altre due edizioni successive dopo quella del 2013, e posso dirlo perché comunque se ne sta parlando un po' con Mariangela Guatteri, si ventila l'ipotesi anche di ripetere l'esperienza, però non sappiamo né quando né dove né come, anche perché appunto sappiamo benissimo questi ultimi due anni come sono stati difficili per gli incontri in presenza, e come tu giustamente diceva Andrea, la presenza forse in un'esperienza come quella di Exit è un po' dirimente, è fondamentale. Io adesso non voglio fare il maestro che fa l'appello, però qualcuno dovrà venire qui a parlare. Ecco, Massimiliano Manganelli. Allora, due cose proprio al volo, due appunti. Allora, il primo, io sono uno di quelli che hanno sempre un po' dubitato della definizione di ricerca in generale, l'ho detto insomma, credo la prima volta a Rieti quasi 10 anni fa, perché di ricerca si apre immediatamente a un sacco di interpretazioni. Allora mi sono sentito dire, ma qualunque poesia, qualunque scrittura è di ricerca? No, dal mio punto di vista, però il fatto che sia praticabile in questi termini, cioè utilizzabile come passepartout, vuol dire che il termine è un po' debole. Non l'ho coniato io, quindi non sto qui a fare né la cronistoria né la critica approfondita della cosa. Mi sembra che sia semplicemente il frutto di una impraticabilità del termine avanguardia, perché il termine avanguardia, lo sappiamo, insomma, evoca ben altro, evoca movimenti organizzati, evoca un'azione politica molto più forte, e quello che forse, se non sbaglio adesso Andrea Inglese accennava, anche la capacità di incidere davvero sul dibattito generale, che queste scritture, per tanti motivi, adesso provo un po' a cercare di enumerare, incontrano, non c'è appunto in questo caso. Cioè, l'avanguardia aveva un ruolo forte, dirompente nei confronti della tradizione, uso il termine proprio utilizzo la coppia di Tinianoff praticamente, sono fermo lì ancora per alcuni aspetti, perché lì dentro in quel libro là ci sono un sacco di cose interessanti. E allora, non potendo praticare avanguardia, allora diciamo non possiamo praticare per alcuni aspetti nemmeno sperimentazione, perché pure quello è estremamente connotato storicamente, ha poi significato un sacco di cose eccetera, però se ci spostiamo su altri campi come proverò a fare forse può essere utile. Allora, utilizziamo in maniera così approssimativa, potremmo usare il termine ricerca. Ora, il termine ricerca, come... la questione che pone Marco nel titolo ironico "Esiste la ricerca", che è là a questo pomeriggio, io l'ho interpretato in una chiave politica, fondamentalmente, di politica della letteratura. Ora, poco fa Vincenzo Ostuni diceva Non abbiamo ragione, cioè non è che c'è una ragione morale per la quale noi scrittori di ricerca, o come ci vogliamo definire, siamo meglio di quegli altri. No, io direi, riprendendo una frase stracitata e straabusata, no, siamo dalla parte del torto, ma in maniera assolutamente consapevole e deliberata. Cioè, siamo seduti dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano già occupati. Che cosa intendo? Intendo che fondamentalmente se c'è una specie di sorta di esclusività o di esclusione da parte di queste scritture, molto spesso non credo che parta dalle scritture, dagli scrittori stessi che ne sono promotori. Cioè, facciamo due esempi a caso, Marco e Michele oggi pomeriggio, ma viene da fuori, diciamo. È chiaro che c'è sempre la volontà dei campi letterari di delimitarsi, c'è questa necessità di posizionarsi, di mettersi in questa posizione: noi facciamo questo, voi fate quest'altro, e fanno parte della normalissima dialettica, appunto, della letteratura e della politica della letteratura. Però la mia sensazione, giusta la mozione di Vincenzo, apriamoci ad altri interlocutori, non so se gli altri interlocutori siano interessati a interloquire con noi. Io mi metto in un noi in cui, in maniera abusiva, insomma, perché non è che faccia non credo di appartenere all'area delle scritture di ricerca. Ora, sono semplicemente un lettore accanito. Questo torto, diciamo, in cui è stata messa la scrittura di ricerca, l'ho visto ripetersi nel tempo più volte, e l'ho visto in una dimensione di disconoscimento, fondamentalmente, che è molto molto fastidiosa. E mi sono chiesto, infatti, se questo stesso gioco fosse stato fatto in due campi come quello artistico e quello musicale, se innanzitutto fosse stato possibile farlo, cioè faccio adesso degli esempi banali, o se addirittura sia praticabile una cosa di questo genere. Cioè, molto spesso le scritture di ricerca vengono definite figlie del gruppo 63, quindi negando immediatamente una qualunque innovazione rispetto a quello. Cioè, sono passati ormai 60 anni praticamente, però sembra che tutto sia fermo a Balestrini, a Sanguinetti, eccetera. Come scherzosamente dice spesso Marco Giovenale, spesso sembra che il dibattito letterario in Italia sia fermo al 1957, cioè all'anno della polemica in prosa tra la polemica in versi, polemica in prosa tra Sanguinetti e Pasolini. Più o meno i termini sono più o meno gli stessi. Cioè, c'è una negazione, ovvero non siete di ricerca, la ricerca non esiste, oppure la ricerca è passata ovunque. Cioè, capita di leggere nell'introduzione a un testo che farà, ahimè, perlomeno, tradizione di qua a fino a che qualcuno non lo contraddice, la prosa in prosa è addirittura egemonica in questo paese. Cioè, io ho scoperto che in un testo universitario si scrive che le scritture di quel gruppo là, a cui appartiene anche, cioè, c'era anche Andrea Inglese, cioè Alessandro Broggi, Andrea Raus, Gerardo Bortolotti, spero di non dimentico qualcuno, tutti gli fondamentalmente sono egemonici. Quindi abbiamo scoperto che Tic, che è maggiore editore in questo momento di questo, è più o meno, c'ha il ruolo di Feltrinelli negli anni 60. Capite che è risibile, se non fosse tragica per alcuni aspetti, no? Perché quello è un elemento interpretativo forte, perché è uscito in una collana universitaria, eccetera, eccetera, eccetera. Molto spesso invece è Vabbè, ma io mi sono sentito dire da anni fa, da lettore e critico di un testo di Michele Zaffarano, e vabbè, ma il cadap, ancora il cadap, bisogna vedere che ci fai col cadap, insomma, poi quel discorso che faceva poco fa Vincenzo Stuni, l'assertività, e bisogna vedere quello che ci fai con l'assertività, e la stessa cosa vale per il cadap, non è che il cadap, siccome l'ha usato Balestrini automaticamente, e poi peraltro non è neanche il primo, automaticamente è finito. Allora, con la stessa logica dovremmo ragionare sulla pittura a olio, cioè siccome la pittura a olio è stata praticata molto nel 4-500, fine, non si può più fare la pittura a olio. Ora, quello che io mi chiedo è se questo sarebbe possibile in un campo come quello artistico o quello musicale, cioè le cosiddette musiche sperimentali e dall'altra parte quelli che fanno le colonne sonore per le fiction televisive cariche di roba in maggiore, tutto ultratonico, si metterebbero a dire no, non esistete, quella roba, cioè non c'è, fondamentalmente non c'è, non è che non esiste, è stato tutto già fatto, perché ripetete, cioè, non so se sia possibile, non me ne intendo, temo di no. Sì. Sì, lo fanno, va bene, ti fa piacere. La stessa cosa vale per il campo artistico? Oddio, là è molto più esplosa la situazione, qui forse Andrea, che se l'è studiato un po' meglio, può dircelo. Non lo so, ho la sensazione che ci sia un gioco tipicamente letterario e tipicamente italiano a negare fondamentalmente, o a fare in modo, a negare che esista l'innovazione, che esista la ricerca, che esista quello che vi pare, che esista l'avanguardia, come si è tentato di fare negli anni 60, ma addirittura, oppure dire no, è stato già fatto, quindi l'abbiamo già detto, vabbè, ancora che continuate con queste cose, eccetera eccetera. Io trovo questo gioco continuo. Ora, bisogna dirlo, 2 giorni fa, che qui c'è Marco che può spiegarcelo meglio, un esempio di questo, c'è negli esempi, ce l'hai messo i didistici di Marchesini? No. Uno degli esempi sono usciti dei distici di Marchesini. Sì, io mi confrontavo prima con Marco, sì, anch'io ho avuto la sensazione di tornare al 1957, cioè prima che Modugno andasse a Sanremo a devastare tutto con Le Blu Dipinto di Blu, e, perché quello era il 58, e veramente sembrava, cioè, la presa in giro, che per me è una cosa davvero clamorosa, nei confronti della scrittura di ricerca, o di quelli che si definiscono... Sì, sì, però, no, però è un esempio... Sono perfettamente d'accordo, però è un esempio tra i tanti di questo atteggiamento. Ecco perché era un po' per rispondere a Vincenzo: sì, magari ben venga l'interlocuzione, quelli che citavi tu sono autori più che condivisibili per quello che mi riguarda, però molto spesso non ho avuto questa sensazione di grande apertura nei confronti di queste scritture, e tanto è, chiudo, la dimostrazione sta nel campo editoriale. Cioè, è il solito discorso, io entro in una grande libreria e ci trovo le forze del male e le forze del bene, le forze del male. E ricordo che Marco giorni fa aveva pubblicato una serie di foto, stavo in quale libreria? Le due Feltrinelli, una di Larga Argentina, da dove mi hanno cacciato poi. Ah, perché doveva fare i libri. Eravamo anche dentro il libro. E le forze del male erano Franco Arminio e Mariangela Gualtieri. Rondo. Rondo, sì, non mi ricordo chi erano questi. Voi. Vabbè, sì. Le forze del bene naturalmente non c'erano, cioè, ovviamente. Ora, questo la dice lunga. Ora, visto che Andrea faceva il paragone con la Francia, ecco, lì mi sembra che la situazione sia un po' più vitale, più sana, cioè nel senso, se io entro in una libreria, provato a Parigi, perlomeno a Parigi, entro in una libreria e vado cercando i libri di Poel, vado a cercare i libri di Nathalie Cantin, ce li trovo. Cioè, la grande differenza è questa. Ora, scrittura radicale, chiamiamola come ci pare, però c'è, nel senso, poi probabilmente saranno, come dice Andrea, saranno due campi che non si incontrano mai, due universi paralleli che camminano, però sono due universi. Invece qui, da una parte, abbiamo un universo che tenta di inglobare l'altro, o meglio, neanche di inglobare, di cancellarlo del tutto, e l'altro che cerca in qualche modo di difendersi. Basta così, grazie. Grazie, io saluto con con molto piacere questa riunione che vedo anche abbastanza numerosa e dove vedo che c'è una generazione che si sta interrogando sulla tendenza. La parola tendenza non l'ha ancora detta nessuno, ma se noi parliamo di ricerca significa interrogarsi sulla tendenza, sia pure con questo doveroso punto interrogativo. Infatti, diciamo, mi pare siano state già esposte tutte, almeno molte ragioni di questo punto interrogativo. E interrogarsi sulla tendenza, mi pare, ecco, io ho dietro le vecchie tendenze del Novecento, scusate, ritengo che i novissimi siano un punto di non ritorno. Ho partecipato al gruppo 93 terza ondata, quindi, e forse, ecco, questo discorso poi si è interrotto negli anni 90 sostanzialmente, anche con i nostri fallimenti di quel periodo. E ecco, anche sulla nozione di avanguardia, beh, non la faccio lunga perché ne ho parlato tante volte, io ho un'altra idea: l'avanguardia non è la pattuglia che sta più avanti dell'esercito, è l'infiltrato paracadutato dall'altra parte delle linee, per cui potremmo anche dire di essere in questa situazione, no? Perché quando appunto vediamo i social network, vediamo, ci sentiamo veramente l'infiltrato, no? Solo che manda messaggi che non si sa dove arrivino. Allora, ecco, effettivamente per me la formula della ricerca, io l'ho usata, era un po' la terza, no? Scendendo dall'avanguardia allo sperimentalismo. Bene, allora proviamo la ricerca, no? Se non possiamo usare queste altre formule. E capisco, appunto, lo dicevamo prima, e ricerca può essere certamente, dice sì, ma chi è che non ricerca, no? Basta non sapere dove si deve arrivare, no? Però ricerca, ecco, contiene anche un altro risvolto semantico, che è quello della scienza. Quindi in fondo ci suggerisce che il discorso scientifico e il discorso letterario poetico forse non sono così distanti come oggi sembrano essere diventati, e quindi l'aspetto intellettuale, l'aspetto della consapevolezza dell'operazione che si compie, diciamo l'autore come operatore, al posto dell'autore come emittente dell'interiorità. Ecco, quindi sì, ecco, direi che questa potrebbe essere una formula interessante da aprire ad una discussione, giustamente, più larga, più stretta. Io sì, ho questa vecchia idea di intransigenza che ormai non si può più praticare, capisco, perché essere intransigenti oggi vuol dire guastarsi con forse anche con la moglie, con gli amici sicuramente. E, ecco, però ecco, un'ultima cosa vorrei notare, e giustamente Marco ha messo esiste la ricerca, quindi diciamo questo termine non è specificato dove sia questa ricerca, no? E mi sembra che in altri documenti che ha scritto usi il termine scrittura, giusto? Scrittura di ricerca. E che questo è un termine appunto novecentesco, da Barthes, insomma. Perfetto, sono d'accordissimo. Ma perché ha fatto questa operazione? Poi magari dirà che non è vero, non ci aveva pensato. Perché oggi il termine poesia è diventato pericolosissimo, pericolosissimo. Pronunciare questa parola significa immediatamente finire dentro quella che con una felice calambur, felice accama, ha chiamato la aura fritta. Quindi poesia, plaf, siamo lì dentro. E ecco, infatti poi il discorso sugli adolescenti, eccetera, eccetera. Sì, a parte che gli adolescenti queste poesie le hanno sempre scritte, non c'è poi da preoccuparsi tantissimo. Vi vorrei far leggere, forse le ho bruciate, quelle che ho scritto io da adolescente. Quindi non è quello il problema. Però c'è un problema certamente di ricezione della poesia, per cui ecco giustamente in inglese diciamo io vado a una lettura di poesia e lì sono come faccio a spiegare che la mia tendenza è diversa, no? Quindi certamente dobbiamo difenderci e forse ecco, almeno aggiungere un attributo alla parola poesia, visto che da un punto di vista tecnico si finisce sempre per parlarne, però poi si viene recepiti attraverso questa nozione sostanziale, no? E quindi certamente la parlare di poesia di ricerca, poi naturalmente dobbiamo i confini di questo termine, no? Di questa tendenza sono estremamente delicati e a me piace molto anche la formula del radicalismo che prima riprendeva anche Massimiliano e credo che ci sia un altro punto che forse e risponde a quelle esigenze etiche che ha posto Ostuni all'inizio, e cioè questo aspetto di autocritica della ricerca, che può assumere la ricerca, di autoantitesi. Appunto, scrivere poesia contro la poesia e contro se stessi, contro la propria stessa operazione. Questo credo che appunto possa servire ad un lavoro di disincrostazione ideologica, appunto, e di instabilità dell'identità. Perché questo credo possa essere esattamente un contributo del testo, come dire, creativo. E l'identità oggi sta, diciamo, è in fondo dentro la politica. Dopodiché, indubbiamente, voi mi potreste dire, sì, ma chi ti leggerà mai? E qui io mi arrendo e vi posso dire che la ricerca in questo senso non esiste, ma è un falso problema secondo me, anche perché noi per chi scriviamo? Scriviamo per il pubblico di oggi? Allora dobbiamo fare esattamente quel tipo di operazioni. E state attenti, perché io ho sempre visto che quando qualche amico sperimentatore si metteva a cercare il pubblico, finiva in mezzo e non soddisfaceva né da una parte né dall'altra. Quindi la storia della letteratura ci insegna che chi ha avuto successo oggi, chi ha avuto udienza nel suo tempo, poi è sparito. Quindi l'infiltrato manda, come dire, messaggi nelle bottiglie. Grazie. Solo una notazione. citazione velocissima, il merito di esistere la ricerca con settore creativo è di Michele Zaffarano, perché il titolo l'ha trovato lui. Non so, io volevo ascoltare anche Chiara Cortesine, se vuole. Allora, mi provo a riallacciare un po' a certi argomenti che sono venuti fuori prima. Anch'io sono dalla parte di quelli che credono che i novissimi abbiano creato effettivamente una frattura dalla quale sarà difficile uscire. Io parlo da una posizione un po' eccentrica rispetto a quelle che sono state dette finora, sia a livello generazionale che a livello di operatori culturali, perché non scrivo in prima persona, provo a fare a volte critica e soprattutto cerco, cioè la mia ossessione a livello discorsivo è quella di vedere se l'università e l'accademia e la poesia di ricerca siano fenomeni in sé compatibili o se siano semplicemente un ossimoro destinato a essere permanente. Cioè, prima si diceva giustamente che il dibattito sembra fermo al 1957, ma credo che una delle responsabilità di questo problema sia che non esiste una buona storiografia, una buona coscienza universitaria di quello che sia successo al dibattito dal 1957 a oggi. Cioè, c'è un problema, secondo me, legato a che cosa sia poesia lirica e che cosa sia poesia di ricerca, che nasce anche dal fatto che non si sia creato all'interno delle aule universitarie, delle aule liceali, un'idea che ci sia un'alternativa vera tra lirica e poesia di ricerca. Cioè, oggi un giovane anche interessato, anche incuriosito alle scritture di ricerca, le percepisce come un qualcosa di totalmente altro rispetto a quello che viene insegnato sui banchi di scuola. E almeno io non ho mai avuto la fortuna di avere dei docenti che insegnassero scrittura di ricerca. E, un po' forse per le chiusure, mancanza di autocoscienza e volontà anche di creare un qualcosa di totalmente altro rispetto al mondo istituzionale, al mondo delle istituzioni anche linguistiche dell'Accademia e dell'Università, e un po' diciamo forse per paura di esprimersi, di pronunciarsi in relazione al presente, di dare delle etichette, se vogliamo, di questo genere. Io credo che il gusto anche si alleni a livello sociologico, a livello linguistico, e quindi creare, cioè inserirsi come virus all'interno dell'accademia e delle istituzioni universitarie e creare anche una cartografia, una storiografia della poesia di ricerca potrebbe servire, potrebbe contribuire in futuro al dibattito. Ma questo lo chiedo, cioè, veramente da attuale disoccupata del mondo universitario, quindi non so se possa avere senso. Cioè, è possibile coniugare insieme, cioè, non più l'ideologia, il linguaggio, la Sanguinetti, ma veramente l'accademia e la ricerca? Cioè, potrebbe essere una delle future svolte, dei futuri punti di interrogativo relativi alle avanguardie. Cioè, anche studiare oggi avanguardie all'interno dell'università viene fatto con una specie di pruderie, come dire, vabbè, io faccio un corso un po' eccentrico, avrò 3-4 studenti, ma cioè, lo devo inserire, devo fare ad esempio un discorso di storiografia in relazione a Montale o un certo tipo di tradizione che nulla ha a che vedere con l'avanguardia. Ma si può fondare una tradizione dell'avanguardia o comunque un discorso che stia dentro quel tipo di storiografia e non che venga considerato come qualcosa di reattivo. Cioè, io ricordo che al liceo ho studiato le avanguardie come un fenomeno negativo, reattivo rispetto a un contesto, ma è possibile studiare le avanguardie anche per quello che di costruttivo hanno creato, cioè per creare un ponte anche rispetto al mondo della sperimentazione di oggi. Io mi trovo anche a chiedermi spesso, proprio in relazione a quello che si diceva all'inizio, cioè alla apparente disponibilità maggiore di autori sperimentali. Cioè, oggi è possibile, e lo si diceva prima, leggere Adriano Spatola, Corrado Costa, Nanni Balestrini, non sono più piccole edizioni a tiratura limitatissima come qualche anno fa a centinaia di euro vendute su eBay, ma il fatto che ci sia siano a disposizione questi testi senza che sia stato creato un discorso critico, ecco, e teorico attorno a questi testi, li renderà effettivamente operativi per le nuove generazioni? I poeti giovanissimi di cui si parlava all'inizio riusciranno veramente a essere intercettati da questi testi? Non si rischia che questi testi restino nel circolo e nella cerchia dei cultori dei testi che erano già potenzialmente interessati prima? cioè come si rende una scrittura di ricerca non una scrittura di resistenza, ma una scrittura effettivamente operativa in un presente storico. Cioè, questi sono gli interrogativi che mi vengono da porre a livello critico e teorico, e forse anche di partire dal concetto di avanguardia, di sperimentalismo, e chiedersi come funzionino, come funzionassero anche a livello ideologico nelle avanguardie, al di là di come sono stati manualizzati, cioè come sono diventati antologie oggi, potrebbe essere interessante. Ci sono delle scritture teoriche di Guido Guglielmi, ad esempio, da riscoprire completamente, cioè, e da porsi anche a livello veramente storiografico, cioè di chiederci, interrogarci seriamente e non soltanto dal punto di vista della militanza su questi testi. Cioè, io credo molto in questo tipo di significato. E poi un altro problema che mi pongo a livello critico è, prima si diceva appunto dell'avanguardia come gesto di essere paracadutati dall'altra parte di una barricata o di un esercito, di due fazioni. I nuovissimi avevano la possibilità effettiva però di essere paracadutati dall'altra parte delle istituzioni, del filo spinato delle istituzioni, hanno occupato degli spazi di potere sia in grandi case editrici che all'interno dell'università, erano anche poeti universitari. Dove vuole paracadutarsi la poesia di ricerca? Dove vuole e può paracadutarsi la poesia di ricerca? Quali sono le barricate ed è possibile effettivamente arrivare dall'altra parte? Queste sono delle domande, secondo me, su cui si gioca, al di là della definizione stessa di che cosa sia poesia di ricerca, il destino della poesia di ricerca editoriale, ideologico e veramente statuario, cioè che cosa vogliamo che diventi la poesia di ricerca, a chi parli. Ovviamente anche il lettore è una questione, diciamo, quella sulla fruizione enorme che adesso non si potrebbe aprire, ma non esiste lettore che non possa essere preparato a ricevere anche delle letture di tipo critico. Secondo me quello su cui dobbiamo interrogarci è vogliamo intercettare il lettore di oggi o vogliamo costruire il lettore della poesia di ricerca? Cioè, vogliamo effettivamente che i libri delle poesie di ricerca vengano venduti alla Feltrinelli di Firenze Santa Maria Novella, oppure diciamo, ci interessa che venga messa in scacco, messa in discussione, messa criticamente in discussione la modalità di fruizione oggi? Secondo me, almeno questo, cioè io mi ero posta queste domande a livello veramente di interrogativi da porre a voi, non come tipo di resoconto, ecco, per il quale avessi delle risposte. E poi un'altra cosa che mi interesserebbe chiedere a chi effettivamente fa della poesia di ricerca è la questione editoriale o relativa ai macrotesti. Glass parlava di fine delle raccolte ed effettivamente è interessante chiedersi quali siano i modi di ristrutturare il libro a livello sperimentale, cioè che cos'è un libro di ricerca al di là dei contenuti, al di là delle ideologie. Ci sono delle forme e delle forma struttura, delle forme macrotesti che siano immediatamente riconoscibili come libri di ricerca. Non voglio veramente togliere altro tempo perché penso che ci sia, quindi forse poi interverrei dopo se qualcuno vuole rispondere o se vogliamo creare anche un po' più di dibattito, oltre che appunto formazioni frontali che sono più accademiche. Scusate, perché sei brevissimo. Breve anche scusa, Giorgio Patrizzi, mi sembra giusto. Sarò breve anche rinunciando appunto a qualche rievocazione d'antan, perché effettivamente certi discorsi mi riportano appunto a esperienze che abbiamo appunto sperito, tra l'altro, con l'amico Francesco Muzzoli 50 anni fa, insomma, direi che ce la vediamo con questa grande iniziativa che fu allora per noi soprattutto Quaderni di Critica, che insomma erano appunto una serie di fascicoli monotematici legati appunto a quelli che allora ci sembravano i fattori della ricerca e della sperimentazione più importanti. E proprio pensando a quello, adesso non voglio fare per carità una laudatio temporis acti, però insomma forse può essere utile capire perché una cosa del genere oggi sarebbe impossibile. Oggi sarebbe impossibile. Quando, venendo qui, pensavo a questa frase che è stata citatissima poi in questi anni, in questi mesi zanzottiani, ci siamo sentiti dire sempre ha trovato l'avanguardia, anche questa cosa, questa frase con cui Zanzotto un po' irrideva appunto alla ricerca e all'avanguardia. E oggi appunto, a parte un po' cinismo, per carità, la grandezza di Zanzotto, però appunto un po' il cinismo della domanda oggi probabilmente. Questa domanda è inapplicabile perché non c'è più l'avanguardia, appunto, come diceva giustamente Francesco. Quindi questa ricerca è legata all'esperienza appunto singola, insomma, appunto, di chi è paracadutato oltre le linee nemiche, o comunque non amiche. Ecco, allora noi eravamo un gruppo di giovani studiosi e attirati appunto dalla sperimentazione, dall'avanguardia, dalla politica, eccetera, avevamo creato questo collettivo in cui ci si confrontava sui temi che ci sembravano quelli più caldi e più importanti, ma era un confronto che avveniva dentro le aule universitarie, almeno era nato nelle aule universitarie per lungo tempo, aveva una dopo un primo numero di questa rivista, diciamo prodotto, autoprodotto, poi trovò anche uno sbocco editoriale, che era un editore allora molto importante, attivo almeno nell'area militante, che era Samonà, che era Savelli, scusa, prima era Samonà Savelli, poi fu soltanto Savelli. Aveva aveva anche un pubblico in qualche modo, perché erano temi che circolavano in un'area appunto di interesse alla letteratura e alla ricerca formale della letteratura. Poi c'era appunto, eravamo nell'epoca del formalismo come cultura di fondo, insomma, degli studi letterari. Adesso non voglio perché mettermi a fare lezioni su queste cose, ma solo per ricordare che avevamo trovato delle condizioni in cui sì, come dire, un brodo di culture, insomma, in cui si poteva muovere bene, che oggi non esiste più. Oggi non c'è un editore a cui rivolgersi, non un editore, insomma, importante sul piano nazionale, se non appunto tanti editori che a livello locale si lavorano e possono mettere in circolazione certi testi. Poi soprattutto non c'è più l'ambito universitario in cui muoversi, perché nell'università, come diceva poco fa appunto Chiara Portesini, nell'università questi discorsi sono assolutamente, almeno quello che mi è dato di sapere, sono assolutamente non praticati o poco praticati, o al contrario anche addirittura cancellati, negati, eccetera. E poi c'è una cosa di fondo, adesso scusate un po' la rozzezza dell'espressione, ma viviamo in un regime di incultura generale terribile, insomma c'è un'ignoranza, parte dell'università, parlo poi in generale dell'Italia, della società italiana, per cui certi discorsi è veramente molto complicato portarli avanti, è molto complicato trovare un pubblico possibile. Ecco, prima si diceva Chiara, il lettore, chi può essere il lettore di questo tipo di ricerca? Ecco, è difficile costruire, bisogna che il lettore va costruito, perché la scrittura di ricerca non guarda, non ha un interlocutore privilegiato, se non gli altri, se non i colleghi, diciamo, che partecipano a questa ricerca. Io sono molto contento di questo incontro, ringrazio Marco in primo luogo, insomma gli organizzatori di questa cosa. Mi sembra veramente molto importante che siamo tanti, molto più di quello che pensassi potevamo vederci qui oggi. E questa presenza così massiccia qualcosa vuol dire, a parte la curiosità, ma insomma oggi con questo caldo a Roma, venire qui e solo per soddisfare una propria curiosità mi sembra un'interpretazione, insomma, un po' riduttiva della cosa. Invece credo che sia molto importante trovare una serie di attenzioni da parte di chi pensa che le cose non possano continuare in questo modo, appunto nel campo della scrittura, e chiamiamola come vogliamo, appunto anche poesia di ricerca, poesia tout court, o comunque della scrittura, della scrittura creativa. Quindi questo fatto di ritrovarsi e di pensare di portare le proprie esperienze, come stavamo facendo e come avverrà qui, portare le proprie esperienze per mettere in comune, per riflettere, per discutere, mi sembra una cosa molto importante a cui oggi probabilmente non siamo più tanto abituati, almeno a Roma, credo che sia una delle prime esperienze di questo tipo, insomma, quanto mi risulta, in quest'area e con questa prospettiva. Questo è sicuramente una cosa da salutare con grande piacere, grande, anche un po' con quello che una volta si chiamava l'ottimismo della volontà, insomma. Poi naturalmente c'è il pessimismo dell'intelligenza che ci rallenta un po', però insomma partiamo con l'ottimismo della volontà. Che cosa fare? Che cosa fare? Ecco, come prima giustamente diceva Andrea Inglese, bisogna cercare di trovare che cosa manca e costruire poi questi elementi. Per esempio una ciclicità di questo tipo di incontri, una struttura in qualche modo creare per mantenere l'attenzione e la dinamica di questi scambi di impressioni, di opinioni, eccetera. Poi naturalmente ci sono, come dire, l'approfondimento su di vari temi, di vari campi, per esempio quelle osservazioni con cui ha aperto Vincenzo Stuni sulle tre prospettive appunto della ricerca sono assolutamente condivisibili. Io condivido anche con lui questa necessità di tener presente comunque anche quel tipo di esperienze che ci sembrano in realtà anche molto, molto lontane, molto lontane da noi, e che sono, come dire, in qualche modo costruiscono la cornice entro cui ci dobbiamo muovere, forza, volenti o nolenti, e dobbiamo fare i conti anche con queste realtà, e quindi bisogna anche, come dire, rapportarsi e trovare un modo per convivere, insomma, per entrare anche se rifiutando quel tipo di prospettiva, per comunque entrare in rapporto dialettico con queste posizioni. Detto questo, io personalmente credo che oggi un tipo di ricerca, di sperimentazione lo possiamo avere solo se pensiamo alla, ma questo ripeto, è tutto personale, è basato sulle mie esperienze, sulle cose che conosco. È possibile un tipo di sperimentazione solo se pensiamo alla scrittura, come dire, proiettata in una dimensione interdisciplinare, interlinguistica, translinguistica, ma non soltanto con l'attenzione a la poesia legata a performance, eccetera, ma insomma la poesia che si confronta, la scrittura, la poesia verbale che si confronta con altri testi, altre forme, altre opere che invece sono legate alla dimensione visiva, sonora, eccetera. Ecco, credo che oggi questa sia, come dire, l'universo con cui si deve confrontare la poesia per la scrittura, per avere un modo di trovare ossigeno e di rafforzarsi, insomma, e trovare quindi anche una possibilità di raccontare la realtà contemporanea più efficace che non in precedenza, anche perché appunto dobbiamo fare i conti con una situazione editoriale in cui gli spazi sono assolutamente stretti, sono assolutamente condizionati dalla situazione generale e appunto dell'economia in cui siamo calati, e quindi il mercato con le richieste che a cui ci condiziona. Ecco, quindi io mi interesserebbe molto lavorare, come faccio già un po' da tempo, ma insomma continuare a lavorare in questa prospettiva e trovare degli interlocutori che siano attenti ad una dimensione della poesia che non sia soltanto quella legata alla parola e alla costruzione verbale, ma che guardi al di fuori del linguaggio verbale per guardare altri tipi di linguaggi. Al di là di questo, credo che appunto dobbiamo lavorare soprattutto per diffondere una cultura di questa scrittura, una cultura che porti anche all'università, se è possibile, ma insomma diffonda, e anche attraverso, come dire, canali che so possono essere incontri di questo tipo, conferenze, pubblicazioni, lavorando appunto anche creando dei contatti tra editori diversi che magari lavorano in regioni diverse in queste prospettive. Insomma, veramente siamo in una fase in cui non è indispensabile, ma è auspicabile che ci possa essere un accordo così solidale in questo senso, che poi ci aiuti appunto a uscire dall'impasse che stiamo tutti soffrendo, se no non saremmo qui. Grazie. Luigi Magno. Allora, io faccio parte di quelle mosche bianche che all'università, un anno sì, un anno no, fa corsi su questa poesia un po' chic per studenti fichissimi e per degli happy few. E faccio questi corsi a studenti che l'anno prima, studiando il 600, non so, mi hanno chiesto, chiedo magari all'esame, mi pare di questo aspetto di Fedra, e mi dicono, professore, ma Fedra alla fine muore. Oppure mi dicono, leggendo le relazioni pericolose, professore, Madame de Merteuil era veramente cattiva. Sono gli stessi che poi ascoltano le lezioni anche con una certa passione e interesse su Nathalie Cantan, se parlo di Vincenzo Stuni, perché no, se parlo di Michele Zaffano, perché no. Perché dico questo? Perché quando Marco, Michele e gli altri mi hanno proposto di intervenire, ho letto questo titolo, cioè Esiste ancora la ricerca, non senza una dose di idiozia, cioè l'ho letto non pensando alla scrittura di ricerca, ma alla ricerca in senso di critica. Conosco malissimo la situazione italiana, quindi non mi permetto di, come dire, di parlarne qui. Vedo meglio quella francese, di cui ci ha già detto tutto Andrea Inglese, quindi mi limiterò a ricordare un dato. È vero che in Francia ci sono due percorsi paralleli, no? La poesia, quella che Inglese chiama la poesia con la P maiuscola o la ripoesia, da un lato, che è quella ampiamente foraggiata, e poi c'è la post-poesia, che in Francia è comunque foraggiata, perché ha la possibilità di attingere a dei fondi che in Italia non ci sono. Ma quest'ottica, diciamo, mercantile, secondo me, Andrea, tu mi correggerai se sbaglio, perché conosci meglio di me la situazione, non è l'unico fattore che spiega questa situazione, c'è anche il fattore della ricerca. Nelle università francesi si lavora molto di più che nelle università italiane su questa scrittura di ricerca. E il fatto che esista dunque una critica, o diciamo il fatto che la critica non solo universitaria ma anche dei centri di ricerca, che in Italia non ci sono, in Francia sì, renda questa produzione non leggibile ma letturabile, prendo il termine da Giulia Cristeva ma lo uso in maniera completamente altra, questo permette alla poesia di ricerca in Francia di circolare, esistere, anche al di fuori di un'ottica meramente commerciale, mercantile. Permette a questa poesia di circolare all'interno di quello che Bourdieu avrebbe chiamato il campo della letteratura. No. Credo che per il resto sia stato detto tutto, quindi less is more, lascio il posto a chi mi segue. Grazie. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, delle cose che sono state dette chiaramente mi esimono da ripetere cose con cui sono molto d'accordo. Mi sembra che si possa sintetizzare un po' la situazione di cui state parlando cercando di metterla in modo propositivo, e molte cose infatti sono già state dette, mi fa piacere perché c'è un sentire comune sul quale non ci eravamo neanche messi d'accordo. Questo problema del costruire i lettori o costruire, diciamo, quella rete per cui certi testi diventano leggibili o comunque diventano una parte di un sistema in cui gli elementi cominciano a rispondersi. E dal mio punto di vista ci sono alcune difficoltà che però si possono superare, e sono le difficoltà di cui parlavate. Non tanto per l'idea che in Italia sia impossibile far entrare un discorso sulla scrittura dentro le università, quanto perché quando ci entra trova il vuoto, trova, non trova agganci, non trova appigli. E allora, secondo me c'è bisogno di teoria, c'è bisogno di pensiero, insomma, e, detta proprio molto semplicemente. Innanzitutto perché bisognerebbe che, parlando di queste scritture, si rifacesse ogni volta il processo. Il termine ricerca è interessante perché evoca appunto il laboratorio, evoca l'esperienza del passaggio da uno stato a un altro. E questa è una cosa che nelle università si fa sempre meno, perché i laboratori di poesia di solito sono affidati a poeti che pubblicano da Mondadori, Einaudi, tutto, poeti mainstream, diciamo, i quali non hanno alcuna pallida idea di quanto la poesia, dico la poesia in senso generale, la scrittura, la poesia, insomma, sia un atto, un processo relazionale, prima di tutto, relazionale, e sia proprio un atto processuale, cioè qualcosa che si sposta e non qualcosa che viene presentata lì e ipostatizzata, insomma. Questo manca, questa consapevolezza manca a chi scrive, prima di tutto, figuriamoci a chi legge. E questo è uno dei problemi principali. Questo genere di pratiche di scrittura, secondo me, aumentano in chi le pratica, ma anche in chi semplicemente le fruisce, la consapevolezza di quest'idea relazionale e processuale dello scrivere. Questa cosa a volte si riesce a fare con i più giovani, con i ragazzi, insomma, si riesce a fare, ma non è sempre facile farlo, perché bisogna partire dal vuoto e bisogna agganciarsi a qualche conoscenza pregressa che spesso non c'è, è inutile negarlo, e non viene neanche valorizzata, cioè, anche perché c'è un fatto. Purtroppo, la definizione di poesia di ricerca a me va benissimo, però nell'attuale situazione della ricerca universitaria genera una specie di equivoco semantico. La ricerca universitaria oggi è fatta di fundraising, è fatta di progettese, sono schifezze di questo tipo, cioè ci viviamo in mezzo tutti i giorni, è una cosa disgustosa, è uno stravolgimento totale dell'idea stessa di ricerca, del pensiero di ricerca. Questa è una situazione gravissima, perché questa è la situazione grave che sta dietro al fatto che in Italia certe scritture non vengono nemmeno considerate come esistenti, invece esistono evidentemente, no? È inutile farsi domande su questo, se siamo qua esistono. Ma allora dice, ma è il solito discorso, però come si esce da questa situazione? Secondo me, prima di tutto, c'è un fatto. Io ho idea che bisogna puntare sulla tecnica, cioè se tu devi puntare sul processo e ricreare il processo di produzione ogni volta, che è la cosa essenziale, anche a costo di produrre dei testi a perdere, no? Prendi, non so, 30 persone e li fai comporre con delle direttive, dei parametri, delle immissioni di teoria in mezzo a questo processo, e vedi che cosa ne viene fuori. Poi quando viene fuori qualcosa, lo prendi e lo butti via, all'Emilio Villa, no? Cioè, fai dei testi a perdere. Questo è una cosa, secondo me, essenziale. È più importante la teoria dell'effettiva poi risultanza testuale. Poi il testo verrà in un secondo momento, eccetera. Io su questa teoria, cioè su quale, dice, quale dovrebbe essere questa teoria, secondo me bisognerebbe basarsi appunto su questioni molto tecniche, molto, molto pratiche, la prassi. Prima di tutto, per esempio, questa, come dire, la più ipostatizzata delle distinzioni, quella tra poesia e prosa. Allora, la famosa egemonia, no? Di cui si parlava prima. Allora, io, cioè, voglio dire, chiariamo un fatto una volta per tutte: il verso di per sé questa è una cosa che dico spesso ai miei studenti, il verso di per sé è una risposta, è uno strumento di lavoro che è nato dal fatto che si voleva rispondere, si voleva, come dire, creare un cardine, una specie di porta girevole tra chi scrive e chi legge, in modo da poter comunicare, cioè uno standard, diciamo, no? Uno standard condiviso. È come con la musica polifonica, cioè la musica polifonica si è specializzata nella sua terminologia nel momento in cui la polifonia si è complicata. Più complichi le cose su cui agire, più ti serve un sapere tecnico per decifrarle. È così, cioè è un processo, diciamo, cognitivo, non è nemmeno... È storicamente precisabile, ma è cognitivo. Ora, qual è la... cioè, il verso è una risposta a che cosa? Il verso è una risposta a un contesto folclorico, cioè una situazione antropologica, umana, interumana, nella quale la poesia era orale e si comunicava e si raccontavano delle cose, delle storie, attraverso la ricorrenza di determinati ritmi. Allora, il verso è la risposta tecnica a questa situazione. La prosa, di fatto, è una risposta tecnica a un mondo che non è più folclorico. O meglio, magari in parte può essere folclorico, ma è un mondo che è, dal punto di vista della percezione e del costruirsi del discorso, completamente diverso. E quindi l'idea di, diciamo, l'idea di usare la prosa è semplicemente prendere atto che non siamo più in un mondo folclorico. Magari poi ci sono delle aree che lo sono o che tornano ad esserlo sperimentalmente o quello che volete. Però, insomma, quindi la distinzione verso-prosa che viene operata da chi dice «Ah, questa non è poesia, questa è, insomma, è un'altra cosa, a noi non ce ne frega niente perché non suona bene, non regge». Sono tutti falsi problemi, dipende dal sistema a cui si risponde e tra l'altro la prosa come viene usata da prosa in prosa, tanto per intenderci, è una prosa che tende anche a, come dire, a segmentare, no? Tende a proporre delle strutture di segmentazione, cioè tende praticamente a usare degli strumenti che concettualmente noi associamo di solito al verso. Insomma, questo è un esempio per dire, no? Magari adesso vi sembrerà troppo fuori tema, ma l'ho fatto perché generalmente queste scritture fanno fare delle domande su questa roba. Se noi continuiamo a parlare semplicemente di poeti ultra consolidati, dei quali per forza dobbiamo parlare perché sono, diciamo, li prendiamo come dei punti di connessione tra ciò che gli studenti hanno studiato nei manuali e ciò che adesso potrebbero praticare. Però, ecco, entrare in questo discorso significherebbe aprire però delle finestre teoriche che secondo me sono ancora più importanti che non l'idea di quali poeti uno debba studiare o quali debbano essere oggi i poeti leggibili o non leggibili. Non ho degli argomenti adesso indefettibili con cui spiegarlo, però è una cosa che mi sono trovato spesso a scontrarmi. Cioè, quella funzione dell'avanguardia di cui avete parlato è una funzione, secondo me, ancora viva in realtà. L'avanguardia come messa in crisi dello stesso spettatore, dello stesso lettore, addirittura presa in giro del lettore, del fruitore, dell'ascoltatore, dello spettatore. Quella è ancora una funzione molto attiva, secondo me. Magari senza l'antagonismo, senza lo spirito antagonistico di novecentesco, però forse neanche, secondo me, neanche tutto di quello spirito è andato perduto. Però la cosa più importante è che l'avanguardia genera pensiero, di fatto, genera teoria sulle cose. Quella funzione che aveva l'avanguardia adesso ce la può avere la poesia di ricerca. L'unico problema è che ricerca nel nostro sistema è una parola oggi assolutamente travisata a livello accademico, ma completamente travisata. Cioè, non avete idea, cioè no, ce l'avete idea, insomma. è proprio un, è una, come dire, una burocratizzazione della, dell'idea stessa di ricerca, contro la quale bisogna, secondo me, combattere ferocemente e senza pietà. Bisogna essere proprio spietati, bisogna fare i muri di fucilazione contro questa cosa, perché altrimenti non se ne esce più. Quindi, secondo me, naturalmente sono d'accordo con l'importanza di tutto quello che avete detto. Secondo me un passaggio fondamentale sarebbe proprio questo di cominciare a concepire questa idea di poesia di ricerca come un processo da svolgere volta per volta, quasi da zero, anche senza arrivare a un risultato testuale, ma che generi teoria sulla cosa, cioè che generi teoria su come possiamo leggere qualsiasi testo, non solo i testi di Michele Zaffarano o di Marco Giovenali, eccetera, ma qualsiasi testo. È una funzione importantissima, è una funzione, secondo me, basilare, fondamentale, e che di fatto viene completamente travisata, trascurata da situazioni in cui si apprende la poesia o si in qualche modo si cerca di fare un discorso teorico sulla poesia. Tenete presente che i nomi che avete fatto prima, cioè quelli di Matteo Marchesini, di Rondoni, eccetera, hanno come primo obiettivo il fatto di essere anti-accademici. Cioè la cosa paradossale è questa. Lo vedo perché operano a Bologna, lo so benissimo come fanno e come cosa operano, e la loro idea è quella di costruire uno spazio al di là dell'accademia, al di fuori dell'accademia, nel quale finalmente arrivare alla delibazione del vero nettare poetico. Questo è totalmente fuorviante, perché non è la distinzione tra accademico e non accademico, la questione è la distinzione tra chi ha capito che la poesia è un sistema processuale e relazionale, e chi invece pensa che l'identità del poeta sia il fine ultimo, cioè la tendenza universalizzante, quella del poeta che ti fa vedere finalmente dove si può arrivare a scrivere. Secondo me c'è questo primo blocco teorico da mettere in piedi. Poi da qui si può riflettere su cosa sia il verso, su cosa sia la lirica, su cosa sia lo spazio lirico, su perché la lirica abbia una tendenza rituale oppure no. Si possono fare mille discorsi, ma se non partiamo da questo presupposto, processualità e relazionalità, secondo me ci scontriamo con una serie di contrapposizioni che facciamo fatica a, di cui facciamo fatica a liberarci. Basta, chiudo qua. Adesso controllo per prima cosa che ore sono, per avere modo di capire. Sono le 6:30, siamo abbastanza vicini a quel momento che Alberto ha predisposto per noi tutti della vendita compulsiva, che speriamo si traduca anche un acquisti compulsiva di libri, che invece si svolge dall'altra parte del campo quadro. E se ci sono interventi da parte di chi è già intervenuto o di chi non è intervenuto ma è presente, e vedo molti amici e noti che potrebbero. Il registratore è aperto, quindi volendo. Vincenzo. Allora, io sono un po' un paracadutato, no? Mi sento un po' il paracadutato della situazione, o almeno uno dei paracadutati potenziali, perché lavoro in un grande gruppo editoriale. Secondo gruppo editoriale italiano, cosa prova a fare un paracadutato in un gruppo editoriale italiano negli anni 20 di questo secolo? Non può fare sicuramente, non riesce a fare quello che faceva l'editore di Savelli negli anni 70, questo ve lo posso garantire. però è pure vero che secondo me un margine di azione esiste, almeno io fino a che me lo fanno prendere lo pratico. Ricordiamo che nel primo gruppo editoriale italiano, che è in Audi Mondadori Rizzoli, che è posseduto per intero dalla famiglia Berlusconi, perché appartiene al gruppo Fininvest, non si può pubblicare nessun intervento di politica di sinistra. Ecco, questo è un fattore che nessuno dei nostri autori considera, e che invece io da anni mi batto per far notare agli autori del gruppo Mondadori, cioè che non c'è la possibilità di esprimere un dissenso politico nei confronti della destra innanzitutto, ma in generale del sistema politico. Questa cosa non è dabile nel principale gruppo editoriale italiano, che copre circa il 35-40% delle vendite editoriali. È una situazione probabilmente senza confronto nel resto del mondo, è una situazione particolarmente grave, è una situazione contro la quale si potrebbe fare anche una battaglia, ecco, come autori, se non altro provando ad astenersi a pubblicare con loro. Allora, questo io ho provato tante volte a proporlo nel dibattito pubblico, fino a che a un certo punto mi sono anche un po' stufato, insomma, perché non ho trovato alcun tipo di riscontro. Questo non significa che non sia una battaglia che un gruppo di letteratura radicale, per riprendere il termine di Balderini, che è stato evocato con favore anche da Francesco Muzzoli, non possa fare, ecco, pubblicamente. Cosa prova a fare un editore radicale in un grande gruppo italiano? Io mi picco di essere l'unica, cioè di dirigere, l'unica casa editrice, co-dirigere, perché siamo in due, l'unica casa editrice italiana di gruppi editoriali che abbia un'impostazione francamente anticapitalista. Cioè, non ci sono né nel primo gruppo italiano, tantomeno prima di che abbiamo detto, né nel mio gruppo, né nel gruppo Feltrinelli, nonostante le sue ascendenze storiche, né nel gruppo Giunti, né nel gruppo De Agostini, in tutto coprono il 70-80%, 65% del mercato editoriale, non c'è una voce anticapitalista. L'unica voce anticapitalista è quella che questo piccolo caricatutato prova ad esprimere sommessamente pubblicando autori come Slavoj Žižek, Noam Chomsky, Tony Negri, Alain Badiou, e questi. Questo non per dire che io sono bravo, ma insomma, per dire che c'è forse ancora una possibilità di movimento, nonostante io sia molto, mi senta molto paralizzato nella situazione in cui lavoro, e comunque è una situazione in cui sono più fortunato di tanti altri, e in cui mi viene consentito di lavorare e di pubblicare anche autori come Francesco Pecoraro, come Andrea Inglese, come Daniele Ranieri e altri ancora, che sono autori che potrebbero essere apparentati, non dico a una scrittura sperimentale come la si intendeva in prosa negli anni 60, che sembra essere veramente scomparsa o quasi scomparsa dall'orizzonte del possibile, quasi, sulla misura lunga del romanzo, però comunque una scrittura latamente sperimentale, certamente capace, almeno io, a me pare così, di interrogare criticamente il presente in maniera perfettamente adeguata alla contemporaneità. Per dire alcune battaglie culturali che si potrebbero fare insieme, anche costituendo un... Io ci provo, ci ho provato in varie forme, con il Movimento TQ, ci abbiamo provato lavorando da ESC insieme. C'è uno spazio di lotta, per esempio, perché in Italia la poesia di ricerca, la scrittura di ricerca non ha fondi? Certamente la Francia gode di una situazione di bilancio diversa dalla nostra, non c'è dubbio, però esistono delle istituzioni molto floride, anche ad esempio nel nord Europa. Sappiamo che la Scandinavia è una delle regioni in cui la scrittura di ricerca, dico che ha una popolarità, però ha un sostegno, ha una visibilità in libreria, ha degli organi. Ogni volta vediamo una rivista svedese che fa, per fare un numero ci vogliono, non so, 10.000 euro, ci chiediamo come cazzo sia possibile, eppure ci riescono. Comunque, con TQ avevamo provato a lanciare un'idea, che è quella di una book commission, brutto termine, sulla scorta di quello che succede in Norvegia. In Norvegia, dove vabbè, se le biblioteche hanno una frequentazione del 90%, cioè, rispetto al nostro 30-40%, però esiste una Book Commission che con una spesa moderata sceglie ogni anno 300-400 titoli di narrativa, poesia, saggistica, teatro e sostanzialmente li finanzia. Ma li finanzia non in maniera passiva, cioè semplicemente dando i soldi per stamparli, ma annettendo questo meccanismo di finanziamento un meccanismo di diffusione, in particolare nelle biblioteche. Ricordiamo che in Italia l'unico esiste un enorme aiuto all'editoria, che nessuno, tutti quanti sottostimiamo, diciamo in Italia non ci sono fondi per l'editoria. In Italia i libri hanno l'IVA agevolata al 4%, come il pane e il latte, sono considerati bene di prima necessità. Questa cosa ha un costo per le case dello scrittato valutabile, io sono dei conti, mi sono fatto anche un po' da solo, però quindi potrebbero essere grossolanamente inesatti, però valutabile nei 150-200 milioni di euro l'anno. Quindi non si tratta esattamente di sciocchezze. Allora, perché io devo considerare i libri della Mazzantini come un bene di prima necessità alla stregua del pane o del latte? Perché lo Stato deve considerare i libri di Caro Figlio, scusate se insisto su questo tasto, come un bene di prima necessità alla stregua del pane o del latte? Perché? Secondo me i libri di Andrea Inglese, di Michele Zafferano, di Marco Giovenale sono dei beni, dovrebbero essere dei beni sostenuti da una campagna di finanziamenti pubblici che di fatto già esistono ma vengono mal direzionati. Una cosa che si potrebbe fare è stata ventilata più volte nei nostri discorsi, in un certo senso ce n'è un piccolo esempio di là, secondo me sarebbe una fiera dell'editoria di poesia radicale, perché la costellazione di case editrici che si stanno impegnando con lacrime e sangue su questo fronte comincia a diventare sempre più numerosa, sempre più interessante, probabilmente più molteplice, se si può dire così, di quanto noi stessi, il nostro radar arriva a percepire. Quello di Marco percepisce tutto, quindi, però il mio sicuramente molto meno, e potrebbe essere un'occasione per creare un punto di incontro e quindi anche di discussione su temi teorici, di laboratori di scrittura, su tutte le buone idee, quelle di Stefano Colangelo. Quindi noi potremmo anche cercare di attivarci, per esempio proponendoli, che ne so, a istituzioni amiche come al Municipio Secondo, lo stesso festival di poesia all'interno del quale si svolgono questi incontri di poesia all'aperto, per esempio ieri c'era quello di Lidia Riviello, Luciana Preda e tutti gli altri, io partecipo ad un altro incontro con Luigi Severi, eccetera. Loro stanno un po' espandendo, cioè stanno investendo un po' sulla poesia, e si potrebbe cercare di, appunto, di creare veramente una piccola egemonia locale di circoscrizione proponendo un'idea del genere, che secondo me, cioè una fiera di poesia radicale o di ricerca potrebbe essere una cosa interessante da fare, nel momento in cui ovviamente non ci si schiaccia sul modello festivaliero e domina, diciamo, il consumo culturale italiano e non solo, ma nel momento in cui riusciamo a farla diventare, ma io credo che potremo riuscirci, un'occasione di discussione, di confronto e se possibile anche di lotta politica. Un'altra decisione da prendere, secondo me, è il tipo di livello polemologico da adottare in questo genere di battaglie. Cioè, usciamo allo scoperto, diciamo che la Gualtieri fa schifo, ce lo diciamo, che la Candiani fa schifo, ce lo diciamo, che Einaudi, tranne felici eccezioni, sta rovinando la poesia italiana contemporanea. Lo diciamo, Marco lo scrive diffusamente, io provo a dirlo, ho ogni più sospinto, probabilmente potremmo farlo con più decisione. Quello che sta succedendo nella poesia è un fenomeno di cui oggi non abbiamo parlato, poi chiudo, è un fenomeno nuovissimo per quello che riguarda il mercato editoriale, perché non è più vero che la poesia non ha mercato. La poesia inizia ad avere un mercato economicamente interessante in Italia, come forse non l'aveva da Prati e Aleardi dalla metà dell'Ottocento, va bene? Cioè, ci sono dei libri di poesia che vendono 30, 50, 80, 100 mila copie. Arminio, ma non solo Arminio, la Candiani, la Gualtieri, ma anche uno scrittore come Michele Mari, scrittore assolutamente rispettabile in prosa e un pochino più di meno, a mio parere, in poesia, ma comunque uno scrittore importante che per me può far parte del nostro campo letterario. Vendono molto, Mari vende molto più in poesia che in prosa. Cioè i libri, le poesie d'amore a Lady Hawke hanno tirato 50.000 copie, che penso forse non hanno tirato tutti i romanzi insieme di Michele Martin. Quindi non è vero che non esiste più il mercato della poesia. Il mercato della poesia, sono riusciti a creare, diciamo, il marketing editoriale è riuscito a creare anche il mercato della poesia, che sembrava fuori mercato. Il problema è che nel mercato della poesia sta entrando tutta la peggio merda. E questa roba tocca che noi la diciamo a chiare lettere, ma perché non possiamo dirla anche con un pochino di verve, senza paura di essere scambiati per degli, non so, dei goffi frustrati? Io non ho paura di dire che lo specchio Mondadori è il disastro assoluto da 40 anni. Lui fa l'elenco degli autori e Einaudi, tranne alcuni autori, ha quasi raggiunto lo stesso livello. Ci sono cose che vanno dette, cioè, perché non si possono dire? Perché non si può fare un po' di guerra su questo? Io penso che potrebbe aiutare anche un pochino la diffusione della nostra causa, non ostacolarla. Io non ho problemi di signorilità, di distinzione borghese. Io posso accettare di cagare su un libro dello specchio Mondadori in pubblico. Se ritenete che la cosa sia utile, mi offro per farlo. Allora, e anche ulteriori interventi? Beh, ci sarebbe molto da dire. Abbiamo parlato di assertività del... Per esempio, Chiara ha lanciato anche il tema importantissimo dell'affiancamento della critica letteraria militante e accademica alla ricerca. E appunto, non a caso, appunto, poi Francesco e Giorgio parlavano di quaderni di critica, io aggiungerei, insomma, Allegoria, Baldus, sul fronte ancora più militante, però fatto dagli autori stessi e via. E sull'architettura del testo, anche un altro stimolo che è venuto da Chiara Fortesine, mi sembra molto interessante che cosa autori di ricerca fanno quando architettano un testo, quando lo strutturano o mettono in crisi le strutture che fino a quel momento forse avevano pensato di poter organizzare. Qui penso a libri come Le api migratori di Andrea Raos oppure lo stesso Faldone di Vincenzo Stuni. Poi c'è il problema della distribuzione, perché se abbiamo parlato di editoria non possiamo non parlare di chi tiene le redini effettive poi, no? della filiera, che appunto è il discorso congiunto di editori e distributori. Ci sono tanti temi su cui effettivamente sarebbe interessante soffermarci, forse il tempo purtroppo non ce lo permette. Sono ormai quasi le 7 e quindi mi limito a ringraziare tutti quelli che sono intervenuti e abbiamo cercato di essere più meno sistematici, meno accademici possibili e forse ci siamo riusciti, forse no. Comunque la registrazione è qui e potrete poi e potrà riascoltarla chi vuole. E comunque ci rivedremo. Parliamo. Perché io penso che non so se Alberto stesso, io immagino che è stato felice dell'incontro di oggi, sia anche in altri contesti sicuramente potranno essere, ma anche in altre città. Sto pensando per esempio alla grande attenzione che c'è sempre stata per la ricerca da parte di Ricercapo, appunto, quindi Renato Barilli e tutto l'ensemble bolognese, eccetera, e altre città ancora. Adesso però vi invito a un acquisto compulsivo. Grazie.